want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di JJ Telesco. Pomeriggio da Giorgio Telesforo, appuntamento 118 del nostro Soundcheck, sempre qui su Radio 24, e la puntata di oggi la dedichiamo proprio al management artistico. Quanto è complicato per i manager gestire l'attività concertistica, ma anche una produzione discografica, per un artista di spessore più o meno alto. E approfittiamo della presenza di un nostro amico, di Roberto Ramberti, che guida personalmente il booking ma anche l'etichetta discografica Groove Master Edition, un'etichetta che produce giovani talenti nel jazz e nell'R&B e che da qualche anno guida presso la Casa dello Spettacolo di Roma un corso di formazione professionale proprio nell'ambito dello show business dedicato al management artistico. Quindi buon pomeriggio a Roberto Ramberti e benvenuto al Soundcheck. Grazie e buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Allora Roberto, intanto io ti ringrazio perché proprio nelle pagine del sito internet groovemasteredition.it tutti i giorni ci fai la gentilezza di pubblicare le nostre scalette, quindi con tutto l'airplay presente al soundcheck, quindi grazie personalmente per il lavoro che svolgi per noi, ma entriamo subito nel merito. Esattamente che cosa fai alla Casa dello Spettacolo di Roma? Alla Casa dello Spettacolo di Roma facciamo diversi corsi, il mio si dedica al management e al tour management e quindi a quello che si deve fare durante una tournée, uno spettacolo sia musicale sia teatrale. Il corso è gratuito per i ragazzi che si sono iscritti ed è un'iniziativa della Regione Lazio. Ci sono tutta una serie di corsi diversi, dall'agente di spettacolo al management, alla direzione di produzione, scenografia, eccetera eccetera. Quello che faccio io è più così indirizzato alla gestione di un tour dall'inizio alla fine, da quando si parte fino a quando si fa il disallestimento di tutti i materiali, di tutte le maestranze, chiamiamole così. Allora, parlando anche di altri settori, di solito il manager deve curare l'organizzazione, deve curare il coordinamento e il controllo di una determinata attività. Nel caso invece di un manager che cura gli aspetti artistici di un artista, quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono ovviamente realizzare un grande show e arrivare al successo, questo è, partiamo diciamo delle banalità, però diciamo che le regole sono le stesse sia per una grande azienda che confeziona lavastoviglie sia per noi che poi ci occupiamo di artisti, per cui ci dobbiamo confrontare anche con le personalità di queste degli artisti, che sono sempre complicate, sono sempre bizzarre, a volte molto bizzarre, diciamo molto bizzarre. Quindi l'aspetto umano è forse quello più complesso da gestire? Sì, perché comunque l'obiettivo appunto è vendere un prodotto che però ha delle sfaccettature che ovviamente una poltrona non esige quello che ovviamente un artista, dovendo mettere la sua personalità dentro un'opera artistica, ovviamente richiede tutto un tipo di lavoro molto diverso al di là delle regole del management, che sono appunto le stesse. Ecco, da manager ti piacerebbe gestire per esempio l'attività o organizzare un concerto di un artista come John Legend? John Legend non lo conosco così bene, ma forse no. Perché? Forse potrebbe essere un po' capriccioso. L'artista capriccioso. Arriva John Legend al soundcheck di Radio 24 con la partecipazione di un grande e formidabile artista, Seal. Il brano si intitola We Loved It. We'll be right back. ascoltiamoci insieme di John Legend e Seal qui al Soundcheck di Radio 24 in questo appuntamento, il primo di due appuntamenti dedicati al management artistico. Soundcheck, il suono della musica. Joni Mitchell never lies, lies. You don't know what you've got till it's gone. Yo, do you feel that? Una superstar americana dell'R&B contemporaneo, Janet Jackson, anche lei figlia d'arte, sorella di Michael Jackson, qui in compagnia di una piccola campionatura tratta da un album di Joni Mitchell, poi il rapper Q-Tip, tutti insieme appassionatamente per dar vita a questo successo ormai di qualche anno fa, intitolato Got Till It's Gone, qui al Soundcheck di Radio 24, in questo appuntamento dedicato al management artistico e quindi con la partecipazione del nostro amico Roberto Ramberti, che fa il manager di professione, guida l'etichetta discografica Groove Master Edition, editore ma anche docente di management artistico presso la Casa dello Spettacolo di Roma. Janet Jackson è una superstar, io ho visto un concerto di Janet Jackson, una cosa strepitosa, una grandissima produzione, e quindi quali sono gli aspetti complessi quando si lavora con una superstar come Janet Jackson, perché mettere su il concerto, lo spettacolo di un artista così significa avere a disposizione mesi e mesi di lavoro con un personale esteso, quindi quanto è complesso anche fare il budget e quali sono le voci di un budget per un concerto così? Un concerto come concerti come questi sono molto complessi, molto complicati, hanno bisogno di mesi e mesi di prove, di appunto di riunioni, di limature, di budget, eccetera, eccetera. Non so se entrare nel merito di un budget di un tour. Sì, è forse più facile entrare nel merito di un budget illimitato, tanto stiamo fantasticando. Pensiamo quindi a questi mesi di prove con tanto di band, musicisti, ingegneri del suono, e poi c'è la progettazione anche del palco e dello spettacolo, no? Che richiede un personale adeguato e naturalmente preparato. Beh, partendo dall'inizio, ovviamente partendo dalle prove musicali della band che vanno in contemporanea con gli allestimenti tecnici, e quindi la progettazione della scenografia, il disegno delle luci, per poi mettere tutto insieme e arrivare alla fase operativa di prove vere e proprie su un palcoscenico già realizzato. Solo questo parliamo di mesi e mesi di lavoro. In attività come queste in questo momento l'evoluzione è molto rapida e ci sono una serie di figure professionali sempre più specializzate. Siamo arrivati al punto che ci sono delle aziende o comunque persone che fanno solamente i pass, piuttosto che altre aziende che fanno solamente il noleggio delle radiofrequenze, i walkie-talkie per parlarsi all'interno dei palasport o negli stadi. Quindi queste sembrano delle piccole cose, ma sono delle voci nel budget importanti anche queste. Sono molto importanti, anche perché essendo così specializzate e specifiche, hanno a volta loro tutta una serie di sotto budget, chiamiamoli così, per cui alla fine il risultato è in questo tipo di cose sono cifre a 6 zeri, parlando di dollari e di euro, insomma. Quindi per abbattere i costi già di produzione di un concerto di questo tipo, parliamo di Janet Jackson ma anche di Prince che sta per arrivare qui al Soundcheck di Radio 24, bisogna calcolare il numero di concerti con le presenze, cioè è un lavoro proprio scientifico da esperto di economia. Diciamo che in questo caso si fa un vero e proprio, dopo il budget si fa un business plan e si fa un piano finanziario dove cerchi di capire come rientrare delle spese che stai affrontando, che ovviamente c'è un'esposizione economica molto importante in questo caso. Quindi se la tournée non va bene, se non va bene, si chiamano i famosi bagni di sangue, bagni di sangue per la tournée. Senz'altro Prince ha vissuto qualche momento di defiance nella sua carriera, anche perché, come dicevi tu, ha un carattere bizzarro, ma è un grandissimo artista e vedere un concerto di Prince è sempre emozionante. Prince con un vecchio successo intitolato Come al Soundcheck di Radio 24. No more will you cry. Come, spirit's calling. There's a reason why. Come, if you had a chance to see the future, would you try? Come, you will, so will I. Come, when I call you up, I wanna tell you what to wear. Soundcheck, il suono della musica. E con Roberto Ramberti, manager di artisti più o meno importanti, ormai una carriera spesa dietro agli artisti, all'organizzazione di concerti, di spettacolo, direzioni artistiche, stiamo parlando proprio delle problematiche legate al management artistico, come si mette su un grande spettacolo, quali sono le voci di budget e quanto è complesso anche il rapporto umano con certi artisti. Allora, che cosa deve fare un bravo manager? Quali sono i vizi del bravo manager? Qual è la filosofia di base? La filosofia, la cosa più importante è il contrario di quello che si usa un po' da noi a Roma soprattutto, il fatto a frate che te serve, detto in romano, che è il no problem just solution, nessun problema solo soluzioni. E questo è quello che deve caratterizzare il lavoro del manager. I vizi del manager sono più che altro legati a stanno nei libri del management, ci sono queste piccole cose. Ne possiamo elencare qualcuna? Per esempio la cosa di preoccuparsi. Il manager non si preoccupa, deve andare subito oltre la preoccupazione. Preoccupazione genera solamente... Quindi torniamo al concept di base, no problem, just solution. Esatto, just solution. Quella che chiamano nei libri la malattia dell'urgenza, cioè quella di bisogna pensare prima di agire, non agire di istinto. Usare parole senza significato è una cosa terribile da parte di un manager, che deve comunque gestire e far capire che cosa vuole dal suo staff, e anche scrivere in maniera scrivere male, nel senso proprio come ortografia, anche se ormai con l'uso del computer questa cosa è un po' passata. Insomma, una persona colta e preparata è molto meglio che un manager ignorante, insomma, questo vuoi dire? Questo mi sembra un po' alla catalano, tanto per citare un nostro amico che purtroppo non c'è più. Esatto. Altre cose è legato a preoccuparsi e pensare al peggio, che possa succedere sempre una cosa catastrofica, oppure arrivare in ritardo è una cosa terribile, e le comunicazioni fatte passare in maniera indiretta, cioè non andare direttamente dall'interlocutore che ti serve, fare il giro, e poi le comunicazioni si perdono e diventano tutte sbagliate. Quindi si deve assumere le sue responsabilità e affrontare in prima persona le varie problematiche. Facciamo un'altra pausa con la musica, e anche qui quella che era un tempo una cantante da piano bar jazz, fra virgolette lo dico, una grandissima artista, bravissima pianista e cantante, l'abbiamo ascoltata già diverse volte qui al Soundcheck, vi sto parlando di Diana Krall con l'intervento, e abbiamo raccontato anche questa fase della crescita della carriera di Diana Krall per l'intervento di un grande producer discografico come Tommy Lee Puma, un grande manager discografico. Ecco, diventa così una grande star con a disposizione un organico esteso come una bellissima big band, e qui la sua interpretazione di un successo, un classico di Burt Bacharach, bellissima questa versione orchestrale di The Look of Love per Diana Krall al Soundcheck. Love, and now that I have found you, don't Diana Krall interpreta The Look of Love di Burt Bacharach qui al soundcheck di Radio 24 per una produzione discografica di Tommy Lee Puma. E siamo ai saluti, quindi grazie a Roberto Ramberti per la partecipazione, ma torni anche domani per continuare la nostra disquisizione sul management artistico, sul lavoro del manager. Magari domani possiamo parlare invece di grandi spettacoli, di come si può portare un giovane artista e un giovane talento all'esposizione nazionale e internazionale. Molto volentieri, io ti ringrazio e ci vediamo domani. Allora, mi hai detto prima, sì, ci vediamo domani, hai detto prima che sarebbe complesso per te gestire il carattere di John Legend, così come quello di Janet Jackson e di Prince, però parlando di jazz le cose magari si semplificano, perché basta portare in giro una piccola amplificazione e un trio, e quindi ti piacerebbe gestire, che so, il talento di Keith Jarrett? Ah, hai preso un tipino, niente male. Hai fatto l'esempio perfetto per come artista semplice da gestire. Guarda, no. Meglio di no, la vita può diventare veramente complicata con Keith Jarrett, lo sappiamo tutti, però è un pianista favoloso, qui in duo con Charlie Haden al contrabbasso, un classico No Moon at All. E quindi a tutti voi grazie, buona giornata, buon pomeriggio e buona musica da Gigi Telesforo. Suono della musica.